Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. La nostra combriccola di viandanti si svegliò la mattina, rinfrancata e fiduciosa, e Dorothy fece una colazione da regina, con le pesche e le prugne colte dagli alberi accanto al fiume. Dietro di loro c'era la tenebrosa foresta che erano riusciti ad attraversare illesi, nonostante i pericoli e gli ostacoli. Davanti avevano un paese bello e soleggiato, che sembrava invitarli a procedere verso la città smeralda. Certo, il fiume li separava da questa bellissima terra. Ma la zattera era quasi finita, e quando l'uomo di latta ebbe tagliato un altro paio di legni e li ebbe uniti con dei chiodi di legno, furono pronti per partire. Dorothy si sedette al centro della zattera e prese in braccio Toto. Quando il leone vi salì, però, la zattera si sbilanciò alquanto, perché era grande e molto pesante. Ma lo spaventapasseri e l'uomo di latta si misero subito sul lato opposto per controbilanciare il peso e, conficcando dei lunghi pali sul fondo melmoso, cominciarono a spingerla sull'acqua. Tutto sembrava andare per il meglio, ma non appena raggiunsero il centro del fiume, la corrente, rapidissima, li trascinò avanti, sempre più lontano dalla strada di mattoni gialli. E l'acqua divenne così profonda che i pali non toccavano più il fondo. «Ai ai ai», disse l'uomo di latta, «se non raggiungiamo presto la riva, verremo trasportati nella terra della perfida strega dell'Ovest, e lei ci farà a tutti un incantesimo e ci renderà suoi schiavi». «E io non avrò mai il mio cervello», disse lo spaventapasseri, «e io il mio coraggio», disse il leone Fifone, «e io il mio cuore», disse l'uomo di latta, «e io non tornerò mai più in Kansas», disse Dorothy. «Dobbiamo fare di tutto per arrivare alla città smeralda», continuò lo spaventapasseri, e spinse così a fondo il suo palo che rimase incastrato nel fango sul fondo del fiume. E prima che riuscisse a tirarlo fuori o a lasciarlo andare, la zattera si allontanò da lui e il povero spaventapasseri rimase là, aggrappato al palo, nel bel mezzo del fiume. «Addio!» urlò, e gli altri erano assai dispiaciuti di doverlo lasciare lì. Infatti, l'uomo di latta iniziò a piangere, ma per fortuna si ricordò che poteva arrugginirsi e quindi si asciugò le lacrime col grembiule di Dorothy. Ovviamente lo spaventapasseri era in un bel pasticcio. «Adesso sono messo peggio di quando Dorothy mi ha trovato», pensò. «Allora ero appeso ad un palo in un campo di grano, dove almeno potevo far finta di spaventare i corvi. Ma uno spaventapasseri su un palo in mezzo a un fiume non serve proprio a nulla. Temo che non otterrò mai il mio cervello». La zattera continuava veloce a scivolare sul fiume, allontanandosi sempre di più dal povero spaventapasseri. A un tratto il leone disse: «Qui bisogna fare qualcosa. Se vi aggrappate saldamente alla mia coda, potrei nuotare fino a riva, tirandomi dietro la zattera». Così saltò in acqua, e l'uomo di latta si aggrappò alla sua coda, mentre il leone nuotava con tutte le sue forze, cercando di guadagnare la riva. Faticava assai, anche se era grande e grosso. Ma lentamente la zattera fu tirata fuori dalla corrente, e con l'aiuto di Dorothy, che la spingeva col palo dell'uomo di latta, raggiunsero la riva. Erano distrutti dalla stanchezza quando scesero dalla zattera sull'erba verde. Sapevano che la corrente li aveva portati molto lontano dalla strada di mattoni gialli che conduceva alla città smeralda. «E adesso cosa facciamo?» chiese l'uomo di latta, mentre il leone si sdraiava al sole per asciugarsi. «Dobbiamo tornare sulla strada, in un modo o nell'altro», disse Dorothy. «La cosa migliore è camminare lungo il fiume finché non la ritroviamo», osservò il leone. Così, dopo essersi riposati, Dorothy prese il cestino e si incamminarono sulla riva erbosa, in direzione della strada dalla quale il fiume li aveva allontanati. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Il paesaggio era bellissimo, fiori e alberi da frutto ovunque e tanto sole per rallegrarli, e se non fosse che sentivano la mancanza dello spaventapasseri, sarebbero stati molto contenti. Camminavano veloci, Dorothy si fermò una sola volta per raccogliere un bellissimo fiore e dopo un po' l'uomo di latta gridò: «Guardate!» Guardando verso il fiume, videro lo spaventapasseri appollaiato in cima al palo in mezzo all'acqua, molto solo e tristissimo. «Cosa possiamo fare per salvarlo?» chiese Dorothy. Il leone e l'uomo di latta scrollarono entrambi le spalle, perché non lo sapevano. Così si sedettero sulla riva ad osservare sconsolati lo spaventapasseri, ma una cicogna, che volava davanti a loro, vedendoli si fermò a riposare in riva all'acqua. «Chi siete e dove state andando?» chiese la cicogna. «Sono Dorothy», rispose la ragazzina, «e questi sono i miei amici, l'uomo di latta e il leone fifone. Stiamo andando alla città smeralda». «Non è questa la strada», disse la cicogna, girando il lungo collo per guardare meglio la strana combriccola. «Lo so», ribatté Dorothy, «ma abbiamo perso lo spaventapasseri e ci stiamo chiedendo come recuperarlo». «Dov'è?» domandò la cicogna. «Là, sul fiume», rispose la ragazza. «Se non fosse così grande e pesante, lo prenderei io per voi», disse la cicogna. «Non è pesante per niente», disse Dorothy con fervore, «perché è impagliato. Se ce lo riporti, ti ringrazieremo tanto, tanto». «Beh, ci posso provare», disse la cicogna. «Ma se è troppo pesante per me, dovrò lasciarlo cadere nuovamente nel fiume». E così l'uccellone volò fino al palo a cui era aggrappato lo spaventapasseri. Quindi gli prese le braccia tra le zampe e si levò in aria e tornò a riva, dove Dorothy e il leone e l'uomo di latta e Toto aspettavano. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. 5% appear too small. Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Quando lo spaventapasseri si ritrovò tra i suoi amici, fu talmente felice che li abbracciò tutti, persino Toto e il leone. E mentre camminavano cantava ad ogni passo, trallallero, trallallà, trallallero, trallallà, da quanto era contento. «Avevo paura di dover rimanere sul fiume per sempre», disse, «ma quella gentile cicogna mi ha salvato, e se riuscirò mai ad avere un cervello, la ritroverò e le farò una gentilezza per ricambiare». «Non serve», disse la cicogna che volava accanto a loro. «Mi piace sempre aiutare chi si trova in difficoltà, ma adesso devo andare, perché i miei figli mi stanno aspettando nel nido. Vi auguro di trovare la città smeralda e di essere aiutati da Oz. Grazie, rispose Dorothy, e la cicogna gentile si alzò in volo e presto non la videro più. Continuarono a camminare ascoltando il canto degli uccelli dai colori vivaci e ammirando quei bellissimi fiori, così tanti da ricoprire la terra come fossero un tappeto. C'erano grandi boccioli gialli e bianchi e blu e viola, oltre a un gruppetto di papaveri rossi, di un colore talmente vivace che quasi abbagliavano gli occhi di Dorothy. «Non sono belli?» chiese la ragazza mentre inalava l'aroma speziato dei fiori. «Immagino di sì», rispose lo spaventapasseri. «Quando avrò un cervello probabilmente mi piaceranno di più». «Se solo avessi un cuore li amerei», aggiunse l'uomo di latta. «A me sono sempre piaciuti i fiori», disse il leone. «Sembrano così fragili e indifesi, ma nella foresta non ce ne sono di così colorati». C'erano sempre più papaveri rossi e sempre meno altri fiori. E presto si trovarono nel bel mezzo di un grande prato di soli papaveri. Dunque, tutti sanno che quando ce ne sono tanti di questi fiori, il loro profumo è così forte che chiunque lo respiri si addormenta, e se chi dorme non viene allontanato da quel profumo, dormirà per tutta l'eternità. Ma Dorothy questo non lo sapeva. E non poteva nemmeno allontanarsi dai fiori di quel rosso così acceso che erano ovunque lì intorno. Quindi le sue palpebre presto si appesantirono e sentì di doversi sedere un attimo per riposare e dormire. Ma l'uomo di latta non glielo permise. «Dobbiamo accelerare il passo e ritornare sulla strada di mattoni gialli prima che faccia buio», disse. E lo spaventapasseri gli diede ragione. Quindi continuarono a camminare finché Dorothy non si resse più in piedi. I suoi occhi si chiusero contro la sua volontà e, dimenticandosi dove si trovava, cadde in un sonno profondo tra i papaveri. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry. «E adesso cosa facciamo?» domandò l'uomo di latta. «Se la lasciamo qui morirà», disse il leone. «L'aroma dei fiori ci sta uccidendo tutti. Io stesso quasi non riesco a tenere gli occhi aperti e il cane sta già dormendo». Era vero. Totò si era rompendo tanto alla sua padroncina, ma per lo spaventapasseri e l'uomo di latta i fiori non creavano problemi, perché non erano di carne e ossa. «Corri più veloce che puoi», disse lo spaventapasseri al leone, «ed esci da questo campo letale. Noi possiamo portare in braccio la ragazzina, ma se dovessi addormentarti tu, sei troppo grande da trasportare». Così il leone si scrollò e si mise a correre più veloce che poteva. In un attimo era scomparso. «Facciamo una sedia con le mani e trasportiamola», disse lo spaventapasseri. Così presero Toto e lo misero in grembo a Dorothy, e poi fecero una sedia con le mani e dei poggiabraccia con le braccia, e così la portarono addormentata attraverso i fiori. Cammina, cammina, il gran tappeto di fiori letali che li circondava sembrava non finire mai. Seguirono il corso del fiume e poi trovarono il loro amico leone addormentato tra i papaveri. L'aroma dei fiori era stato più forte del leone, che dopo tutto si era arreso ed era caduto a pochi metri dalla fine del campo, oltre il quale un'erba bellissima copriva dei campi verdissimi. «Non possiamo aiutarlo», disse triste l'uomo di latta, «perché è troppo pesante da trasportare. Dobbiamo lasciarlo qui a dormire per l'eternità, e forse sognerà di aver trovato finalmente il coraggio». «Mi dispiace», disse lo spaventapasseri. «Il leone era un compagno così valoroso da stentare a credere che fosse un fifone, ma adesso dobbiamo andare avanti». Portarono la ragazzina addormentata in un bel posto accanto al fiume, abbastanza lontano dal campo di papaveri, per evitare che respirasse ancora il veleno dei fiori. E qui la adagiarono sull'erba morbida, aspettando che la brezza leggera la svegliasse. «Possiamo essere lontani dalla strada dei mattoni gialli, ora», disse lo spaventapasseri in piedi accanto alla ragazzina, «perché siamo quasi arrivati dove eravamo quando il fiume ci ha allontanati». L'uomo di latta stava per rispondere, quando sentì ringhiare, e voltando la testa, che girava benissimo sui cardini, vide una strana bestia avvicinarsi correndo tra l'erba. Era, di fatto, un grande gatto selvatico giallo, e l'uomo di latta pensò che stesse rincorrendo qualcosa, perché aveva le orecchie abbassate e la bocca spalancata, mostrava due file di brutti denti e i suoi occhi rossi ardevano come palle di fuoco. Una volta che si fu avvicinato, l'uomo di latta vide che davanti alla bestia correva un topino grigio, e pur non avendo un cuore, sapeva che era sbagliato che il gatto selvatico uccidesse quella creaturina così carina e indifesa. Quindi l'uomo di latta alzò l'ascia, e quando il gatto selvatico gli passò davanti, con un colpo netto gli staccò dal corpo la testa, che rotolò ai suoi piedi. Il topino di campagna, liberato dal nemico, si fermò, e avvicinandosi lentamente disse all'uomo di latta con una vocina squittente: «Oh, grazie, grazie infinite per avermi salvato la vita». «Non parliamone nemmeno, ti prego», rispose l'uomo di latta. «Non ho cuore, sai, quindi cerco di aiutare tutti quelli che hanno bisogno di un amico, anche se sono solo dei topi». «Solo un topo?» urlò l'animaletto indignato. «Ma io sono una regina, la regina di tutti i topi di campagna». «Veramente?» disse l'uomo di latta, facendo un inchino. «Quindi hai fatto davvero una buona azione, oltre che coraggiosa, salvandomi la vita», aggiunse la regina. In quel momento alcuni topi si avvicinarono con la massima velocità permessa dalle loro zampette, e quando videro la loro regina dissero: «Oh, sua maestà, pensavamo che vi avessero uccisa! Come avete fatto a sfuggire a quel gatto selvatico?» E fecero tutti un inchino così profondo che quasi quasi toccavano terra con la testa. «Questo buffissimo uomo di latta», rispose lei, «ha ucciso il gatto selvatico e mi ha salvato la vita. Perciò, d'ora in avanti, dovete tutti servirlo e obbedire a ogni suo minimo desiderio». «Lo faremo!» gridarono tutti i topi in coro, e poi si sparpagliarono, perché Toto si era svegliato e, vedendosi accerchiato dai topi, aveva abbaiato di gioia, balzando nel mezzo del gruppo. Toto si era sempre divertito a rincorrere i topi quando abitava in Kansas e non capiva perché non avrebbe potuto farlo anche ora. Ma l'uomo di latta prese in braccio Toto e lo tenne stretto, dicendo ai topi: «Ritornate indietro, ritornate indietro, Toto non vi farà del male!» Sentito questo, la regina dei topi guardò fuori dal mucchietto d'erba sotto cui era nascosta e chiese timidamente: «Sicuro che non ci morderà?» «Non glielo permetterò», disse l'uomo di latta, «quindi non dovete avere paura». Uno a uno i topi tornarono indietro, quatti quatti, e Toto non abbaiò più, anche se tentò di sfuggire alla presa dell'uomo di latta, e l'avrebbe sicuramente morso se non avesse saputo che era di latta. Infine uno dei topi più grandi parlò. «C'è qualcosa che possiamo fare?» chiese, «per ripagarti di aver salvato la vita alla regina?» «Non riesco a pensare a nulla», rispose l'uomo di latta, ma lo spaventapasseri, che stava cercando di pensare ma non ci riusciva perché aveva la testa impagliata, disse, concitato: «Oh sì, potreste salvare il nostro amico, il leone Fifone, che dorme nel campo di papaveri». «Un leone?» urlò la reginetta, «ma ci mangerebbe tutti!» «Oh no!» dichiarò lo spaventapasseri, «questo leone è un fifone». «Veramente?» domandò il topo. «Lo dice lui stesso», rispose lo spaventapasseri, «e non farebbe mai del male ai nostri amici. Se ci aiutate a salvarlo, prometto che vi tratterà tutti con gentilezza». «Va bene», disse la regina, «ci fideremo, ma cosa dobbiamo fare? Ce ne sono molti di questi topi che ti chiamano regina e che sono disposti ad obbedirti?» «Oh sì, ce ne sono migliaia», rispose lei. «Allora falli chiamare tutti e portali qui il più presto possibile e digli che ciascuno porti un lungo spago». La regina si rivolse ai suoi sudditi e disse loro di andare immediatamente a prendere tutto il popolo. Appena sentiti gli ordini, in un battibaleno corsero via in ogni direzione. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. Ora, disse lo spaventapasseri all'uomo di latta, devi andare ad abbattere quegli alberi accanto al fiume e costruire un carro in grado di trasportare il leone. L'uomo di latta si mise subito all'opera e fece un carro di tronchi d'albero, da cui tolse tutti i rami e le foglie. Li unì con dei chiodi di legno e ricavò delle ruote da pezzi avanzati di un grande tronco. Fu così rapido ed efficiente che quando iniziarono ad arrivare i topi, il carro era già pronto. Arrivarono da tutte le direzioni, ce n'erano a migliaia, topi grandi, piccoli, medi, e ognuno aveva uno spago in bocca. Fu più o meno allora che Dorothy aprì gli occhi, svegliandosi dal suo sonno profondo. Era sorpresa di trovarsi sull'erba, con migliaia di topi attorno che la guardavano timidamente. Ma lo spaventapasseri le spiegò tutto, e rivolgendosi alla topina distinta disse: Permettimi di presentarti Sua Maestà, la regina. Dorothy annuì seria e la regina fece un inchino, dopodiché divenne molto amichevole con la ragazzina. Lo spaventapasseri e l'uomo di latta cominciarono ad attaccare i topi al carro, usando lo spago che avevano portato. Un capo dello spago si legava attorno al collo di un topo e l'altro al carro. Naturalmente il carro era molto più grande dei topi che lo avrebbero trainato, ma una volta che furono tutti attaccati, riuscirono a spostarlo abbastanza facilmente. Lo spaventapasseri e l'uomo di latta si sedettero addirittura sopra il carro e vennero trasportati rapidamente verso il posto dove riposava il leone. Il leone era molto pesante e con grande fatica riuscirono a issarlo sul carro. Quindi la regina ordinò al suo popolo di proseguire in tutta fretta, perché temeva che stando troppo tra i papaveri si sarebbero addormentati anche loro. Dapprima le creaturine, pur essendo tante, riuscivano appena a muovere il carro con un carico così pesante. Ma l'uomo di latta e lo spaventapasseri si misero a spingerlo da dietro e andò tutto meglio. In breve riuscirono a far uscire il leone dal campo di papaveri e a portarlo tra il verde, dove avrebbe potuto nuovamente respirare l'aria dolce e fresca, invece dell'aroma velenoso dei fiori. Dorothy venne loro incontro e ringraziò calorosamente i topini per aver salvato il suo compagno da morte certa. Si era davvero affezionata al leone ed era contentissima che fosse salvo. I topi furono slegati dal carro e corsero verso casa nell'erba folta. La regina dei topi fu l'ultima ad andarsene. «Se avrete ancora bisogno di noi», disse, «venite nei campi e chiamate. Noi vi sentiremo e verremo ad aiutarvi. Arrivederci!» «Arrivederci!» risposero tutti. E la regina corse via mentre Dorothy teneva stretto Toto per evitare che la rincorresse e la spaventasse. A questo punto si sedettero vicino al leone aspettando che si svegliasse. E lo spaventapasseri da un albero vicino portò della frutta a Dorothy, che la mangiò per cena. Alvar Horvacher ha letto Il Mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.